Io ti voglio bene come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me. Di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita. Io ho bisogno di te, come la barca ha bisogno del mare per poter andare, la primavera ha bisogno del sole per poter fiorire, la farfalla di un fiore, un bimbo di una mano che l'accompagni, un cane di un padrone e del vento l'aquilone per poter volare, ed io di te, sempre vicino a me, in ogni istante della mia vita. Ma come hai fatto a farmi innamorare così tanto? Mi guardo nello specchio e mi domando se quello lì sono io. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? Non ha senso questa mia vita, e più ci penso e più è un filo nelle tue mani. Ma come hai fatto? Non so nemmeno quando è incominciato. Io so soltanto che nella mia vita non è accaduto mai. La prima volta che dico veramente ti voglio bene. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Negli occhi miei, nei miei pensieri, in ogni istante della mia vita, sempre vicino a me. Ma come hai fatto a far della mia vita una tua cosa, a trasformare il tempo in un'attesa di rivedere te? Voglio bene. Compare, compare, compare, compare, compare, compà. Pigliatevi a come fare piace, ma lasciate stare i femmini con le capigli ricci. Ogni riccio è un capriccio, lasciatele perdere, su pericolose va. Pigliate a tutti pari, si votti sposi, però non ti pigliare a una donna riccia. Pur riccia ricci teggi, essa ti incanta, però dopo due mesi volite via. No, riccia non picchi da ogni riccio, ti cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no.

sposi, riso per gli sposi. Il nostro anniversario non è sul calendario, perché di matrimonio non si parla tra noi due. Diverso è il tuo cognome, ma uguale abbiamo il nome. Noi ci chiamiamo amore, tutte e due. Amore senza data, senza carta bollata, ti sposo ogni mattina e tu rispondi sempre sì. Il nostro anniversario è tutto il calendario, pieno di feste senza lunedì. Al nostro matrimonio milioni di invitati e come testimoni tutti gli altri innamorati. Noi non giuriamo niente perché non c'è bisogno, con un contratto non si lega un sogno. Come ti sono grato di questa libertà, la libertà di amarti senza essere obbligato. Mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Questa libertà, la libertà di amarti senza essere obbligato. Mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna.